24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovati da Roberta Pellegatta a questa nuova edizione di 24 ore in Europa. Prima o poi gli eurobond saranno irrinunciabili per una politica fiscale comune, sarà un segnale importante dell'impegno degli Stati membri verso l'Unione Europea. Lo ha detto il Presidente della Commissione Europea Barroso rispondendo a una domanda di uno studente nel corso di una conferenza all'Università Cattolica di Milano. Barroso ha quindi aggiunto: se l'Unione Europea è una vera unione monetaria, dobbiamo avere una forma di condivisione del debito. La cancelliera tedesca Angela Merkel ribadisce il suo no all'ampliamento del Fondo Salva Stati Europeo. La Germania chiarisce che non ci sono progetti dei paesi dell'area euro di aumentare la dotazione del fondo anticrisi permanente oltre i 500 miliardi di euro teorici previsti. La Merkel ha anche precisato che l'Europa chiarirà le sue intenzioni su questa vicenda prima delle riunioni primaverili di Fondo Monetario e Banca Mondiale. E i listini del vecchio continente hanno chiuso in lieve rialzo: maglia rosa Madrid, che è salita dello 0,71%, Francoforte ha registrato un rialzo dello 0,19%, Londra dello 0,42%, Parigi piatta dello 0,03%. Le borse europee hanno chiuso in positivo una seduta vissuta all'insegna della volatilità nel giorno delle scadenze tecniche su azioni, indici e opzioni, le cosiddette tre streghe. I dati contrastanti arrivati dagli Stati Uniti non sono riusciti a dare un orientamento agli listini, con Milano che ha segnato più 0,52%, superando quota 17.000 punti, livello che il FTSE MIB non oltrepassava da fine ottobre. Contestualmente lo spread BTP Bund è sceso ai minimi da agosto. La migliore sul paniere principale è stata Impregilo, più 4%, in attesa di novità sul futuro della società contesa tra la famiglia Gavio e il gruppo Salini. Bene ancora Ferragamo, più 2% dopo i conti, mentre l'attesa per i risultati ha penalizzato A2A, meno 3% circa. Contrastato il comparto bancario, positivo invece in Europa. MPS ha chiuso in calo dell'1% sulle indiscrezioni stampa relative a una maxi perdita nel 2011. Intesa San Paolo, più 0,4%, ha invece beneficiato ancora della decisione di distribuire il dividendo nonostante un rosso 2011 a quota 8,2 miliardi. Livia Zancaner da Radio Corp e Radio 24, il Sole 24 Ore. Come avete sentito, sul fronte dello spread tra BTP e Bund siamo sotto quota 290 punti base, con un vantaggio di 30 punti rispetto allo spread della Spagna. Situazione d'allerta invece per Lisbona, con lo spread del Portogallo sui titoli a 10 anni oltre 1200 punti e quello sui titoli a 5 anni a 1600 punti. Voltiamo pagina. Una delle tre bambine ricoverate in gravi condizioni a Losanna dopo l'incidente del pullman in Svizzera si è svegliata dal coma artificiale, è cosciente ed è in grado di conversare con i familiari. Lo ha comunicato il centro ospedaliero dove è ricoverata la bimba. Intanto, in Belgio, è stato il giorno del lutto nazionale per la morte dei 22 bambini e dei 6 adulti. Sono tornate in patria le salme delle 28 vittime del terribile incidente di autobus in Svizzera. Due aerei militari delle forze armate belghe sono arrivati all'aeroporto militare di Bruxelles. Alle 11 è stato rispettato un minuto di silenzio. Al suono delle sirene, migliaia di persone si sono fermate per strada in memoria delle giovani vittime. Le campane di molte chiese hanno suonato a morto. La vicenda ha scioccato un intero paese e per un momento il Belgio ha dimenticato le sue tradizionali divisioni tra francofoni e fiamminghi. Beda Romano, Radio 24, il Sole 24 Ore, Bruxelles. L'arcivescovo di Canterbury, Rowan Williams, è pronto alle dimissioni dopo la lunga battaglia di questi ultimi anni con l'ala liberale della Chiesa anglicana sulla questione dell'omosessualità. Lo hanno riferito fonti politiche al Times. Secondo la BBC, Williams si dimetterà alla fine del 2012. L'arcivescovo guida la Chiesa anglicana dal 2003. Oggi siamo una famiglia, commentano così Antonio e Mario la sentenza della Cassazione che dopo il loro ricorso ha riconosciuto il diritto anche per le coppie gay allo stesso trattamento riservato ai coniugi. La Cassazione ha comunque ribadito il divieto alla trascrizione delle nozze per i due italiani sposatisi all'Aia in Olanda nel 2002. L'avvocato Gianetto Regassani, presidente dell'Associazione Matrimonialisti, al microfono di Katia Caramelli su Italia e resto d'Europa. È un passo molto importante considerando quello che sta succedendo in Europa. Insomma, l'Italia non può pensare di essere un paese a sé stante in Europa, però credo che questo aprirà un dibattito particolarmente aspro tra gli addetti ai lavori, perché credo che la Cassazione ha sancito un principio, poi tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Avvocato, che sta succedendo in Europa? Quali sono i paesi europei più avanzati da questo punto di vista? Sicuramente l'Olanda è un paese particolarmente avanzato, ma possiamo anche parlare della cattolicissima Spagna. Insomma, la Spagna è un paese molto simile al nostro e così Portogallo, in Belgio, dove addirittura le coppie gay possono adottare figli e quindi avere veramente una struttura familiare piena. Questi sono i paesi dove maggiormente è avvertita la necessità di equiparare le coppie gay alle coppie eterosessuali. La Moldova, la repubblica più povera d'Europa, è riuscita ad eleggere il suo nuovo presidente dopo quasi 3 anni. Il Parlamento ha approvato la nomina di Nicolae Timofti, 63 anni, dal 2010 a capo del Consiglio Superiore della Magistratura. La cronaca: i carabinieri hanno fermato a Gorizia 2 cittadini romeni poco più che 20enni residenti in Umbria per alcune rapine in villa avvenute nella periferia di Perugia. I 2 sarebbero gli autori anche del tragico assalto alla villa di Ramazzano, dove il 2 marzo, per difendere la sua compagna, era rimasto ucciso Luca Rosi. Il colonnello Angelo Cuneo, capo del comando provinciale dei carabinieri di Perugia, al microfono di Adriana Fracchia. Sono stati bloccati a Gorizia mentre rientravano dalla Romania con uno di questi furgoni che fa su e giù dalla Romania, dalla Moldavia, dall'Ungheria. Erano monitorati da qualche settimana, sono collegati con la rapina con violenza sessuale ai danni di Papa, del ristoratore, dove hanno violentato la signora ecuadorena di 54 anni, e ci sono dei forti elementi che hanno permesso l'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere richiesta dalla Procura Repubblica di Perugia per l'omicidio Rosi. Per la prima volta è stato utilizzato il reparto crimini violenti dell'Arma dei Carabinieri. In Spagna continua la battaglia contro il cancro per il calciatore del Barcellona, Abidal. Con la sua storia, Eric Abidal aveva già commosso il mondo del calcio un anno fa. Era il 15 marzo del 2011 quando la sua squadra, il Barcellona, annunciò che il calciatore aveva un tumore al fegato e che 2 giorni dopo sarebbe stato operato. Grazie ad un recupero stupefacente, 1 mese e mezzo dopo l'intervento, Abidal tornò in campo. A maggio giocò persino nella finale di Champions a Wembley contro il Manchester United, partita poi vinta 3-1 dai Blaugrana, al termine della quale simbolicamente gli venne messa al braccio la fascia di capitano. A lui l'onore di sollevare per primo la coppa. L'incubo sembrava finito. Ieri invece l'annuncio shock del Barcellona. Eric Abidal sarà presto sottoposto ad un trapianto di fegato. Chissà ora che impatto avrà questo nuovo intervento sulla sua carriera. Il calciatore francese, originario della Martinica, che nel settembre scorso ha compiuto 32 anni, ha rinnovato a febbraio il contratto con il Barça fino al 2013, anche se questa stagione per lui è ormai finita. Tantissimi intanto i messaggi di solidarietà arrivati dal mondo del calcio e dei tifosi, anche in rete. Su Twitter è stato aperto per lui l'hashtag Ànims Abidal, che in catalano vuol dire coraggio Abidal. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Andiamo a Venezia. Il ponte progettato dallo spagnolo Calatrava è stato costruito male ed è costato un sacco di soldi. Ora lo certifica anche la Corte dei Conti, che chiede spiegazioni all'architetto. Non c'è pace per il ponte di Calatrava, ma questa volta i problemi sono per il suo inventore, l'architetto Santiago Calatrava, sotto accusa per i soldi che il Comune di Venezia ha dovuto sborsare e indagato per danno erariale. Dalla Corte dei Conti gli è stato inviato un invito a dedurre l'equivalente dell'avviso di garanzia penale, dopo che 11 anni dopo l'approvazione del progetto futuristico del ponte ad arco ribassato, si sono chiariti i conti. Doveva costare 3,8 milioni di euro, lievitati poi a 6,7, e a lavori ultimati si sono sborsati 11,2 milioni di euro, più del doppio del previsto, e dicono ora i magistrati contabili, se tutti i problemi, spinte e spostamento delle rive, derivano dall'arco ribassato disegnato per motivi artistici, allora tutte le spese che da qui l'errore derivano sono un danno alle casse pubbliche di cui renderà conto chi di dovere. Per questo il procuratore Carmine Scarano ha individuato come possibili responsabili, oltre a Santiago Calatrava, anche i 6 tecnici che si sono succeduti negli anni dal progetto alla realizzazione. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Miró, l'opera del genio catalano, torna a Roma dopo quasi 30 anni in una mostra aperta fino al 10 giugno al Chiostro del Bramante. Intitolata Miró, poesia e luce, la rassegna riunisce circa 80 lavori, tra cui 50 oli e una trentina di schizzi e disegni. Maria Luisa Lax, curatrice della mostra. In primo luogo, mi gustaría explicar que estas obras proceden de la colección. Innanzitutto voglio precisare che queste opere provengono dalla Fundación Pilar y Joan Miró di Mallorca. E quello che voglio sottolineare in questa mostra è soprattutto la ricreazione dello studio, che ci dà molte informazioni sui metodi di lavoro dell'artista e sull'ambiente di lavoro, che per me è un punto fondamentale di tutta l'opera, sui metodi utilizzati, sulla varietà di mezzi, sul carattere inquieto dell'artista e sulla continua ricerca che Miró mette in atto nella tappa della maturità. Ed è tutto per questa edizione di 24 ore in Europa. Grazie a Paolo Corleone in regia, a voi per l'ascolto. Un saluto da Roberta Pellegatta. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.